E bentornati a tutti i radioascoltatori, io sono Marco Segato e oggi non sono da solo, un'altra volta perché c'è con me Simona Zedda, coordinatrice della tappa bolognese di Itaca, il festival del turismo responsabile, migranti e viaggiatori. Benvenuta, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Ciao Marco, grazie di avermi invitato. Sono felice di tornare su Radio Città Fujiko a parlare del festival anche quest'anno. Bologna, il festival del turismo responsabile, tra l'altro Bologna è proprio la tappa madre. Quest'anno sarà dal 12 settembre al 19 ottobre, quindi più di un mese di eventi che più o meno si distribuiscono ogni weekend, quindi dal venerdì alla domenica, con qualche eccezione, ma diciamo che questo è il periodo di svolgimento del festival. Abbiamo anche degli off, tra l'altro, a novembre. Prima di tuffarci sugli eventi di questa tappa bolognese, volevo chiederti anche un po' di spiegare a chi ancora non ha avuto il piacere di conoscerlo che cos'è Itaca. Come indica il suo nome, il Festival del Turismo Responsabile è nato nel 2008 a Bologna. L'hanno fondato l'associazione IODA, di cui faccio parte, insieme a delle ONG, Nexus Emilia Romagna, all'epoca c'era anche Coste, e ITR, l'Associazione Italiana Turismo Responsabile. Nasce da un'idea di due amici, che Sonia Bregoli e Pierluigi Musarò, tante altre persone l'hanno portato avanti negli anni, contribuendo proprio all'assetto odierno del festival. Io sono la coordinatrice della tappa di Bologna ormai da anni, e insieme a tante realtà progettiamo degli eventi di turismo responsabile. Il turismo responsabile ha un significato molto ampio. Comunque, diciamo, per semplificare, organizziamo degli itinerari a piedi e in bici, ibridati con eventi artistici, musicali, quindi diciamo cerchiamo di creare delle reti locali molto eterogenee, fatte da guide ambientali escursionistiche, istituzioni, artisti, aziende agricole, quindi agriturismi, e cerchiamo di fare dei tavoli di lavoro in cui progettiamo e poi successivamente realizziamo degli eventi estremamente incentrati molto sulla socialità, quindi in effetti non sono i soliti itinerari in cui c'è una guida che ti spiega tutto dalla A alla Z e poi finisce l'itinerario, diciamo, e non hai parlato con nessuno, ma invece c'è un contatto continuo con la comunità locale con cui organizziamo in effetti questi eventi. Viene dato spazio alla socialità poi dei partecipanti. Sono degli eventi molto dinamici, ricchissimi di microeventi dentro l'evento, quindi dentro un itinerario a piedi o dentro un itinerario in bici ci sono visite guidate, concerti, performance teatrali, quindi sono molto, appunto, molto ricchi. Quindi, dato che mi hai messo la curiosità, ti volevo appunto domandare di spiegarci quali sono questi eventi immancabili alla quale avremo l'occasione di poter partecipare qua a Bologna. Allora, gli eventi sono tantissimi, perché considera che ci sono diversi fine settimana dedicati proprio al turismo responsabile. Tanto apriamo il 12 settembre con il Migrant Tour, ma purtroppo devo dirti che è già tutto esaurito. Intanto c'è ancora qualche posto per un itinerario molto interessante a Ozzano dell'Emilia, quindi andremo all'agriturismo Dulcamara, faremo un itinerario al Parco dei Gessi, poi ci sarà un concerto, ovviamente si tratteranno temi come le comunità interspecie, quindi una convivenza pacifica e fuori dallo sfruttamento appunto degli animali, un evento ricco di contenuti e di esperienze sì, artistiche in natura e culturali, oltre al fatto che ci sarà dell'ottimo cibo. Secondo weekend c'è una passeggiata multisensoriale, questa volta in un luogo turisticamente molto convenzionale come può essere Piazza Maggiore, ma in realtà le esploreremo grazie all'associazione La Girobussola, che si occupa di viaggi per persone non vedenti e ipovedenti. Ma questo itinerario è dedicato soprattutto alle persone invece che ci vedono, ma viene praticamente gestito come se fosse esclusivamente destinato alle persone non vedenti, quindi ci saranno delle esperienze tattili, delle esperienze multisensoriali, ecco, in generale. E poi ci sono gli itinerari in bici, perché dobbiamo considerare che poi la settimana nel weekend dal 19 settembre siamo già dentro la settimana europea della mobilità, quindi ci saranno ben tre itinerari in bici, uno nella bassa, quindi andremo a cura di FIAB, quindi partiremo da Bologna, arriveremo fino a Budrio e soprattutto andremo a visitare una casa museo che si chiama Pace Maison, oppure andremo fino a Montevegno in bici con Shizen Shatsu e Save Ciclisti Bologna. Abbiamo anche degli eventi nel modenese, per esempio fine settimana, il 21 settembre, avremo anche un itinerario a Mirandola, perché ricordiamoci che uno degli enti che ci finanzia si chiama Territorio Turistico Bologna-Modena, 728 San Benedetto Appennino Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, Marzabotto, itinerari in natura incentrati proprio sulla conoscenza del territorio e soprattutto sull'arte. Ci saranno delle esperienze artistiche in cui i partecipanti potranno partecipare in prima persona. Poi andremo a Castel del Rio, dove stanno lavorando a un sentiero dedicato al loro prodotto IGP, che è il marrone, proprio il marrone IGP di Castel del Rio. Quindi stanno creando un sentiero dedicato a questo frutto molto importante. Castel del Rio ha dei paesaggi bellissimi, consiglio di andare. E anche qui ci sarà una performance musicale davanti chiesa di Montefune, proprio dove ci sarà Luisa Cotifogli, che farà una performance musicale vocale. E sarà il sentiero dei pianeti a Monte San Pietro, un astro trekking, quindi un itinerario a piedi a tema astronomico. E in città concludiamo l'ultimo weekend con itinerario dedicato ai luoghi importanti per la comunità LGBTQ+ di Bologna, con incursioni musicali del coro Como. Poi itinerario in bici, tema acqua, si girerà per Casalecchio, si arriverà a Bologna, si torna a Casalecchio, visita al Parco della Chiusa, anche lì merenda, musica e teatro. E poi finiamo con lo spettacolo Senza Senso, sempre organizzato dall'associazione La Girobus, anche questo uno spettacolo interattivo e multisensoriale. Mi sono dimenticata qualche evento, ma dirli tutti è quasi impossibile, sono tanti, senza contare che poi ci saranno gli off. Cioè, io noi da tanti anni facciamo un itinerario a tema lavoro, questa volta lavoro femminile, quindi luoghi di Bologna che ci raccontano un po' il passato politico, sociale e anche proprio tutti i luoghi legati al mondo del lavoro, quindi anche alle lotte. E poi proprio a Remo ci stiamo lavorando, sempre a novembre, l'itinerario sui luoghi del movimento punk bolognese, festival davvero in cui eventi. Per gli interessati come me, come fare per partecipare a questi eventi? Sicuramente trovate tutte le info su www.festivalitaca.net. Lì trovate le indicazioni, cliccate sulla pagina dedicata al programma di Bologna e lì si trovano tutte le indicazioni, ogni evento ha la sua scheda evento con i contatti, le info e per le iscrizioni. Altrimenti scriverà bologna@festivalitaca.net o a me, il mio numero di telefono 340 177 9941. Anche con un'ottima verve da speaker, quindi se vuoi conduciamo insieme. Va bene. Io ti ringrazio tantissimo per averci parlato di questa bellissima iniziativa, ti saluto di vero cuore, ti ringrazio tantissimo. Ringrazio moltissimo voi. Sicuramente noi di Radio Città Fujiko, nonché i nostri radioascoltatori, non vedremo l'ora di partecipare e di venirvi a trovare. Grazie mille, buona giornata e grazie a tutti.